avvicinò a quella radio che c'era a fianco a lui. Tu immaginati di alzare il 24 cipi di Vamok. Non ho capito chi è questo. Io ne conosco uno che stava in discoteca qua tantissime anni fa. Non so se sia lui. Cibi che c'era, era famoso proprio della discoteca che c'era lì a Usini, capito? C'era solo una discoteca a Usini, non c'era un altro. Avanti il break. Ah, va bene, non c'è problema, va benissimo. Spero di essere all'apparato. Presso che ora? 8 va benissimo, dai. Alle 8 accendo l'apparato, anche prima, magari ti aspetto, dai. Ciao, ci sentiamo domani, ciao. Ripeti lì. Si chiamava di cognome Simula, se non mi ricordo male. Io. Sto pensando, sì, aspetta. Maggio Maria. Non mi ricordo se era Gio Maria Simula, non mi ricordo, no, io mi ricordo il cognome era Simula, mi ricordo. Chiamava la discoteca di Ausi, aspetta che c'è qualcuno che vuole dire chi è. Chi sei? Santiago 5, sì, ma chi sei? Frigo! Ti sento, ma ti sento un po' male, non ho capito il nome dell'attivo tu, come ti chiami? Se mi parli dopo il bip, lascia finire il bip, dopo che senti il mio bip, schiaccia e falla, se no non ti capisco. Campino, ciao, salutone. Avanti, Elio, uno, deve essere uno questo Campino. Ciao Campino, ma io non lo sento qua, non lo sento per niente. Sta arrivando Santiago 5, non so se sia a Sassari. Dove sia a Sassari il Campino? Sì. Ah, cazzo. Tu sei basso per essere a Ussi. Dove sei arrivare? A me da almeno 9 dove sei arrivare qua. Dove sei? A Literario Sospianos. Quindi vicino al cimitero e... a Sospianos. A Literario non può essere. No, cazzo, sono dei cazzardi. A Literario, dovrebbe essere la zona di Literario, il corso, il cimitero, per poi mi pare si scende per andare a Muros. Io sono qua a Sassari, Carborazzi. E c'è anche Elio, la Usi, avanti Elio. Lo senti amico di Ussi? No, non lo sento per niente, zero zero. Io zero per M, non so come ti uscendo, se in macchina, con la mia, boh. Non so se lui mi senta, boh. Il Campino lo senti a Elio? Ah, ma sei in macchina o a casa? Ah, in camion, sì. Ho capito. Quindi conosci Andrea Sanda, conosci Andrea Maricovi, ora che va con la baracchia. Va bene, avanti Elio. Ma mi sente lui? Sì che ti sente. Io non sento per niente, zero. In camion. Sarà nascosto verso la mia parte allora. E sarà magari sotto... sarà nel qualche garage senz'altro via Ussi con camioncino. Facci tutto a casa con i garage interni, capito? KK. Chiuffeccio. Quanto ci è passato su Facebook? Il canale 45. C'è una portata sopra di te, ma tu vedi? No, dopo però io sto uscendo di radio. Sarà qualcuno che voleva passare. Anda bene. Oh, sto scendo col magno, Com'è? Sì, sto scendo bene, a voglia. Ma che di radio? Eia, ah, che radio, sei perfetto. Mi sa che non lo do più questo fatto. Sta venendo via il canale. Niente, no, almeno ce l'hai un apparecchio buono. Ma non puoi mettergli in salvezza se gli va bene, quello che ti ho dato io. Tanto c'hai gli attacchi, c'hai, se non mi ricordo male lì. Però se in salvezza va bene. Penso di sì comunque perché c'è l'attacco del 2009. Non lo so, io aspetta un attimino che sgancio qua, aspetta un attimo. E però scaccia lì e magari va bene anche, vabbè, per il pure l'attacco del Milan ci avevo fatto, quindi penso che già va di bene, però va, niente di strano che funziona. Nada. No, va bene, ma invece avevi fatto l'attacco del 2009, ma ho fatto la gancio di quel migliore che c'è con 40 canali. E infatti no, non va bene. E mi dà l'avete, non hai ancora provato? E non l'ho provato, non hai sentito? No, la verità no, non ho ancora sentito io come esce quel migliore. Guarda, che se lo senti me lo compri. Che cazzo di me lo compri? Chiamo più qua un mitrallo, 40 canali MFM, figurati. E gli ho messo il microfono da tavolo, quello che mi ha dato Stefano. Sono riuscito a sistemarlo. L'unica cosa devo fargli funzionare l'eco adesso. Dov'è o controllare dove cazzo sono i figli del team e dell'eco. E così vediamo se funziona. Adesso te lo faccio sentire, aspetta. Eia, provalo. Ma sì? Sì che ci sono. E allora com'è? Tira. Certo che tira. Esce bene. E te lo so che esce bene. Che... Ma mi c'è il giorno. E a poco vuoi barattiva, ne ho staccato il film della modulazione AM, cazzo, vedete le immagini, cazzo. Se tu gli metti di nuovo il film non esce, cioè esce più basso i vari. Ma invece come gli hanno staccato il film della AM, lo faccio anche all'altro mio se gli viene in mente domani, cazzo, per farlo comparire il radio. Cavolo, guarda che come radio è. Com'è? Se si cazza, com'è, vuoi che sia. Esce molto bene con questa delta. Cazzo, io, quando ho provato giù a casa io era talmente alto l'amplificazione che mi sentiva anche quando scaricavo l'acqua dal cesso. Ma che altro sera quando sono uscito con questo di qua dentro, cazzo, non avete un altro. È vero. È una bella radio anche, no? Pulita. Sì, via, esce perfetto. Non succede, ci ha detto sono dei bubi cuffoli sopra. Quello che ha preso l'acqua con il microfono lì, mi l'ho fatto piacere. L'ho pulito tutto con coso dentro, con su. Figurati, Stefano ce l'ha buttato, ho detto no, è trasferito, che mi dammi, ho detto già me lo sistemo io, e me l'ha provato. Quando l'ho sentito, ma come il microfono ti ha usato? Ho detto quello che mi hai detto tu, ho detto perché? Cazzo, mi ha detto. Risuato vai. Sì, è bello, fa questo me lo tengo io. Sei fresco tu, quello l'ho attaccato al 680, quel microfono, sai come esce forte, una bomba quel microfono. C'è anche il cavetto rocola rosa che esce fuori, quello è per la massatella per non farlo fischiare. Capa, poi bisogna rimanere qua. E vieni tu. Cancellate, tanto se non arriva lì c'è bene. Oh no, quello torna a casa lì, sì, che cazzo. È fresco che te lo lascio col microfono, barbato. E allora, già ne anni. Subito, aspetta che passo all'altra. E io passo all'altra. Tanto se attacca c'è qualcosa al 140 col microfono, ti faccio vedere come cammina. No, già è un bel microfono, già... Rimane guarda quando salgo via Usini con Stefano ti ha detto la gancia 140 con il microfono, ti faccio vedere come cambiano le cose dal giorno alla notte. Vabbè, sicuramente, ma lo posso fare anch'io. E vabbè, tu a dirci quel filo nel cavetto di quel microfono c'è un cavo grosso che non è collegato, se guardi bene. E anche con collegato addirittura dentro dove c'è la batteria. Quello basta che lo colleghi al più della batteria col capetto rosso e all'altra estremità dove c'è lo spinotto. Colleghi a puntare 8 volts del cable e ti alimenti il microfono direttamente dall'apparecchio stesso. Io lo usavo così nel 80. Ah, ecco, l'ho autoalimentato senza batteria. Cazzo, non sai che come si chiama la batteria del microfono, è una cosa assurda, ragazzi. Allora, ho preso questo che c'era un filo in più, è rosso, l'ho preso, gli ho fatto quel collegamento lì. E stava funzionando benissimo. Quando l'hanno sentito, dice, perché ma che microfono stai usando? E tu sa l'elta. Poi dopo che l'ho attaccato io, addirittura anche uno l'avevo attaccato anche quello di... un ragazzo di Italy che c'era un 140, beh, anche lui si è avviato un salto, ci ha comprato un salto la GBC e anche lui ha fatto lo stesso collegamento, usciva bene, ma veramente bene, vabbè, il microfono l'avevo pagato io 100.000 lire, mi figurati da Tomino, parlo di, cioè quello c'ha 15 anni pure quel microfono, eh. Ecco, non si vede, non fanno più di questo, no? Che fanno i Bravo Plus, ci sono in commercio ancora, cioè se ne trovano lì su internet, a voglia, è pieno di visa delta, aspetta, mi sta prendendo un corso veloce, ho mangiato fagiolini, 5 minuti, sono mi caga addosso. E vabbè, non lo sai le trocce, non lo so. Ecco. Avanti. Fabrizio da questa parte. No, Fabrizio me l'ha ascoltato. E dove sei, sotto a casa? Come sotto a casa? Tu dove sei? A Usini. A Usini? No, io sono a Sassari. Cavolo, arrivando a fondo scala. Perché tu è Taviglia o Pomponi, una delle stazioni più forti di Sassari. Ah, ecco, ecco perché. C'era qualcosa. Oh, chi era Pomponi? Quella ne dici, Pomponi? Oh, buonasera. Ciao Luca. Ciao Luca, non può poi andare a trattenere in bagno che se la stava facendo addosso. Vedi, com'è quella? La radio mi interessa a me, la radio. La radio è perfetta, bella, bella pianificata, bella, 5 più. Ho occupato la pizza margherita, piccante, mamma mia. Oh. Luca, ci siamo sovramodulati sicuramente. Stavo dicendo che la radio è super 5. Allora va bene, a Luca gli piace. È troppo forte Bobby, siamo vicini, siamo, c'è sparando tutto qua. La mi allontano un pochettino, già lo sai che... No, questo è da combattimento, eh. È un bel forte, bella, bella. Devo fare delle prove, sto cercando Claudio, perché ho fatto una modifica su questo microfono, volevo fare delle prove dall'altro giorno, siamo 2 giorni ma non ci sentiamo. Allora Fabio, riesco a parlare. Oh. Cioè, ti stanno chiamando. Io sono Francesi. Allora. E Luca, sempre qua siamo. Adesso c'è un nuovo CB a Usi, che sta modulando con un antennino, adesso domani con l'antenna. Oh. Ma anche io l'avevo lasciato perché non c'è il computer, il cellulare. Sono sempre visto nel cellulare, il computer, tutti qua. Ecco, vabbè, chi ha modulato da anni, la passione ce l'ha sempre, c'è poco da fare. È così. Fabrizio, riprenditela, fai girare. Aspetta che sto facendo una cosa, voglio modificare una cosa, ci sentiamo fra un attimo. Cappa. E così tu, piano piano stanno rientrando tutti. Hai visto le foto? Sì, ne ho un paio, e quello è un account nuovo. Dunque, la faccia è quella. Se tu scrivi Luca Ponti, che ne ho altri 1, 2, uno disattivato, ne ho altri due, poi ne ho un altro chiuso, tre attivi adesso, con questo quattro. Ma lì su Facebook? E non te ne fai quattro, cavolo. E ho fatti quel capoche. Ah, ho capito, ho capito. Poker, cos'è? Holden, quello lì. Linga. E capo, già ci gioco anch'io. Senza spendere i soldi però, Gratis. Capo, capo. Sì, ce l'ho anche sul telefonino, lo sono messo. Nulla. Fortuni. Grazie, Brizio, mamma mia. Ma non è che siete così basso oggi? Ah, ma io? Eia. Adesso? Ora un po', ora, ora. Ma adesso è più forte. Era due, perché la salsa mi sento troppo forte. Non tanto va bene questo microfono. No, adesso ti sento meglio. Molto meglio. C'era uno da Ussi, però non so se sia ancora lì, che usciva basso, lo sentiva adesso, io qua non lo sentivo. Vieni qua, muoviti, vieni qua, vieni qua. E allora, qua chi è? Zitta. Fanno un campanello, mamma mia. Che cos'è? Luca, che cucciolo è? Io chi c'ha? Ah. Beh, come sento la campanella di quelli partiscono. Ho scusato 3 secondi, sono all'ascolto. Ok. Ciu cucciu. Ciu cucciu. Eccomi. Alessio, Luca, ci sei Alessio.